Oggi è accaduto una cosa quasi premeditata, nel senso abbiamo un'assemblea in un'azienda che fa parte di Legacoop, facciamo un'assemblea dove comunque sia l'azienda nel mezzo dell'assemblea ci dice che i lavoratori comunque non verranno lasciati a casa il 1° di luglio, ok? Non ci sono soluzioni lavorative, né clausola sociale né nulla, e quindi vengono lasciati a casa dopo 17 anni che hanno lavorato lì, perché l'azienda decide, la Conor decide di assumersi direttamente i lavoratori. Poi ha spostato il lavoro per dire che c'è un esubero o cose del genere. A metà di questa assemblea i lavoratori capiscono che non c'è niente, usciamo per fare uno sciopero. Usciti dallo sciopero abbiamo direttamente la polizia giù, la Digos che ci aspetta giù, la polizia inizia lo sciopero, poi insomma hanno malamente spostato i lavoratori, qualcuno li hanno anche incantonati dove non c'erano altri di noi, li hanno malmenati, e poi noi eravamo da un'altra parte, ci hanno raggiunti e insomma ci hanno ammanettato e stanno tutto in costura. Che poteva fare, però la storia è che non si può, in questo paese ormai non si può neanche più fare un'assemblea sindacale senza avere comunque sia giù la polizia o la Digos. La polizia la immagino l'abbia chiamata l'azienda, quindi. Sì, però che la polizia venga chiamata l'azienda, la polizia venga subito a intervenire quando siamo in assemblea, non in sciopero, van dentro proprio, quando giù c'era la polizia, noi eravamo dentro su a fare un'assemblea sindacale normalissima, che non sapeva neanche da andare in sciopero perché avevamo un incontro, ma raggiunti da telefonate dove ci hanno detto che non c'era nessuna soluzione lavorativa, i lavoratori hanno deciso di andare in sciopero e siamo andati in sciopero, ma siamo andati in sciopero, entrati in sciopero con già la polizia che ci aspettava giù, quindi sembra un atto grave che comunque questa cosa qua, che non sia liberi più questo paese neanche di fare un'assemblea sindacale, una cosa secondo noi grave. Te ti hanno ammanettato, ti hanno portato in questura, ma con che pretesto, con che accusa? Per resistenza, dicono, ma non c'è stata nessuna resistenza, dicono un'altra accusa è violenza privata e non mi dovranno poi far vedere i video di quale violenza privata, e che l'unica violenza poi l'hanno fatta loro contro i lavoratori, e l'altra questione è che non ho dato i documenti, cosa che non mi hanno neanche chiesto, okay? Però noi adesso faccio anche un appello, se le aziende vengono, io credo che quando ci sono in mezzo i lavoratori e le aziende si comportano in un modo non corretto, cioè io credo anche il ministro del lavoro Di Maio, il nuovo ministro del lavoro, deve pensare se è giusto difendere le aziende o se è giusto difendere i lavoratori, perché utilizzare sempre la polizia per difendere le aziende che comunque sia evadono il fisco, sono scorrette, società che comunque sia falliscono, fantasma, cose del genere, bisogna capire, è giusto difendere queste aziende? Secondo noi no, secondo noi è giusto difendere i lavoratori in questo caso, ok? Che sono 17 anni che lavorano in quel magazzino, e Legacoop in questa maniera qua si comporta proprio da farabutto, se comportasse. Ma e quanti sono i lavoratori che perdono il posto? Una trentina di lavoratori, 30.